Danilo. Hola, hola, attenzione, dirci. Ok, poi devo un salmone. Ci sono dirti dal banco, anche a dare del salmone. È un fianco così, impianto serio, cazzo. si sente un rap, ragazzi. Vediamo da sono cazzo, cazzasse, che cazzo può c'era il mixer, l'amplificatore, tutto, ragazzi. Bello. Invece quella specie di cassa che c'ha il monitor digitale, quella costa 42 euro qualche cosa. Io ho capito. Ma ce l'hanno tutti in questo sistema, adesso nei bar quando sono per dire 3 o 4 registrare a voce, no? Per le comande, c'hanno questi affari attaccati con l'auricolare nell'orecchio e si comunicano tra di loro, capito? Come con tre a Bozzi, che cazzo lì è sempre a voce lui, io fa Bozzi. Ciao, Sorgia. C'erano anche le... questa pizzeria che c'è qui di fronte, addirittura c'era anche il bingo, c'era, c'erano quei portati di PMR, vanno sul canale 3, mi sembra che, se non mi ricordo male. L'altra volta ci ho parlato, c'è un cibo che ci lavora lì, addirittura, ma l'ha riconosciuto subito. Ma tu sei Alessio, tu sei solo Alessio, ancora vivo, se mi ha detto, tu hai tanto mi tocco le balle. Sì, ma che. Ui. Aspetta un attimo che mi ha rubato il messaggio, sia che mia figlia, se ho bisogno di qualcosa. Arrivo subito. Ehi, va bene, io sono qua. Ebbene, bello bene. Ebbene, Carletto, come va? Allora, Antonè, come mi senti? Passaggio? 1, 2, 3, prova radio. Operatore Carlo qua, città di Sassari, Nord Sardegna. Ma mio! 9:20 sei qua, a bomba, radio 20, con picchiato 25, radio 5. Avanti, forza, già ti sento. Allora, sì. Prova Carlo qua a vedere quanto arrivi. Ciao Claudio. 1, 2, 3, prova radio, vai. Sei da 7 con picchia 9, hai aumentato. Va bene, ascolta, hai fatto quello spostamento dell'antenna o sempre lì? No, sempre lì, la sposterò domani perché hai visto che acquazzoni stanno facendo e stare in mezzo all'acqua a fare queste cose. Come fa una finestra di tempo buono la sposto dall'altra? Va bene, non provo a fare quella prova lì perché mi sembra troppo attaccata all'angolo, ho capito. Invece se la sposti dove ti ho detto io appena, secondo me va a lavorare molto meglio, perché quell'angolo lì è proprio attaccato allo stilo centrale. Va bene. Sto usando quella radio che ho visto stamattina. No, la tua. Mi sono con i miei figli qua, perché già l'hai visto che stavo cucinando, facendo il ragù, poi ho fatto le lasagne alla bolognese, capito? E quindi adesso ho sentito, l'avevo lasciata bassa, sempre accesa, capito? E già sta andando bene. Ah, quella uguale alla mia, ho capito. Che va bene, ottima radio, ottimo segnale, va bene. Avanti Antonio lo zecca giù dalla gabbia. Sono andati via tuoi figli? No, ce li ho ancora qua, col cagnolino è venuta mia figlia, c'è mio figlio, ho sentito, sono entrato giusto per avere un piccolo riscontro, dai, Bianco per me lascio acceso, ci sentiamo tra una mezz'oretta, cioè, ci sentiamo più tardi, Claudio. Ehi, Carle, va bene, già sono qua anch'io, dai, sono qua in ascolto, ok, che inizio a dare quota alla stufa, saluto anche i tuoi figli, ci sentiamo dopo. Benissimo, più tardi, ciao Antonello. Sì, Antonello, se avessi allontanato forse ho ricevuto qualche chiamata, a dopo, dai. Attenzione, qui che di Antonio. Già ti ascoltiamo, chi è che non ti ascolta a te? Gaffa. Facendo commissioni. Sì, Antonio, ma mi sto ammazzando gli americani dal canale 11, cazzo, qua, una cosa allucinante. Ma c'è qualcuno che sta sblatterando? Gli americani sono nel canale 11, 9:30 mi sono arrivati. Mazza di gurrudica. Sì, ma intanto adesso mi cala la propagazione, si avviani. A quest'ora sempre colpi prendo, cazzo, sempre colpi. Ma non sono andato arrivare forte qua. Mamma mia, come sto. Non so. Vabbè. Dai, Anto, ti lascio 10 minuti che provo a accendere la caldaia, ok? Già sono qua. C'è anche Antonello, comunque in ascolto, e Carlo. Ci sentiamo dopo. Va bene? Comunque stai arrivando fortissimo, già va bene. No, sono qua già a Milano, sono. Ehi, già stai arrivando un bel forte, non ti preoccupare. Ci sentiamo dopo. Cazzo dici sull'onda, prendo un casino della Madonna. Mettiti al canale 11, mi senti come arrivano lì dove sei tu, me. Figura di noghi. Cazzo, sono sempre un chilo, fatto so. È un bel forte, arrivano. Dai, vado ad accendere la caldaia, tanto ci sentiamo dopo, ok? Ok. Ora, Sassari, becco un po' di amici, li ho portato dalla prima comunione, fatta la risa al Bantaloni. Ora, c'è qualcuno in ascolto? Antonio, Danilo, ci sei Danilo 11, doppio rum, ci sei. Fucking boys. Adesso vado di lì, ho la Coca-Cola, questi qua, vale cosa mi rispondono. Infatti, vale, doppio mi No, perché il capello tondo venne. Lello. Davvero? Già mi stava splatterando pure a me. Che ci sono all'acqua dell'aria, no? Io sto dicendo, no, perché il capello tondo. C'è una radio allucinante poi. Mi stanno ammazzando la canale 11. Grazie. Anche qua, 9.30, 9.20 arrivano dal canale 11. Prendo colpi col 140 io, mamma mia, fila di quel baracchino. E anche io sto pigliando colpi, sto pigliando. Forse l'unico che piglia meno colpi è 3.009, quello di 20 anni fa. Sì, ce l'ho anch'io quello. Anche il Cones 4.000 non ne prende colpi. Il coso, l'Elbex è lo stesso. Questo VKF mi ha tanti singolpi allucinanti, non ho capito il perché. Vabbè, bianco per me, dai, fa sempre chi su a bozzimi. Te ne dico gonto, io le parlo sopra perché tanto non lo sento. Qua San Pi, mi dà sul radio Santiago, grazie. Sì, addios. Ora Coca-Cola. Vai a controllare l'amico Boio che tu lo senti. Io lo sento, ma lui non mi sente. Ed è un'ora a bordo e domanda dei controlli. Tanto poi quando entro io le parlo sopra. Non ti sente, buonasera a tutti, non so chi ci sia. Ho sentito Pomponio, Claudio, Bombolo in Baramobile e Sanpei, semicoppia, Affermativo. Ehi, sempre a Bozzi. Non sente nessuno, ci mette a parlare sopra. Da poco fa che mi soprammodula Antonio. Oh, e ti supera Antonio. E lui non ti sente. Miracolo, cioè cose della scienza, misteri della scienza e della tecnica. Sì, ma ne faccio una ragione io, ma piace a me. Io parlo poi, cosa vuoi dire? Se non intendi, a lui per la gioia, non la mia, cosa vuoi dire io? No, c'era Antonio in macchina poco fa, da Bozzi, se non sente, cosa vuoi dire? Va bene, dai, riprendi tu, mi allontano un attimo, poi ci sentiamo, ok? Ehi, capa, sono in macchina, sono. Sempre forte, Antò, sempre forte, non c'è problema. Sono in via Alghero, mi sono. Sì, passi da 8 a 9.20, no, molto QSB, però è ovvio, no? Capa, dai, bianco un attimo che sto prendendomi la cosa, l'acqua. Ora, Coca-Cola, decetami. Qua non ho l'eco, se no vi rispondevo con il lecca. Abbi Antone. Il tavolo in conto già. Cosa vuoi dire? Non c'era altro che il televisore. Ho preso e lo spento. Mi siete in saletta, funziona bene. Qua guarda, senti quelle bestie sull'11 dall'America splatteranno il canale anche qua, gli possa scrocchiare un fulmine, cazzo. Cosa gli fa il fulmine? No, già c'hanno quei 40 altri 50 piani, cosa vuoi che possa? Mi basta anche una gran prima per poter uscire bene. Sì. Beh, sempre cosa si dice là? Sta piovendo anche là? Cioè qua adesso hanno però piovuto a più riprese qua. Sampi, va, non mi intendi più, me. Va bene, archiviato. Antonè, beh, quella persona dove eri l'altro giorno si è dotata anche lui di PMR. Ce l'ha anche lui. Ma vero oppure Bao Bao? Ah sì, mi dà Bao Bao, ma non è... Manca Bao Bao, capito? Però funziona bene, funziona benissimo. Sì, ascolta, gli hai proposto qualche antenna in particolare? No, mi sembra che c'era l'antenna. Sì, l'antenna c'era. Deve solo salire su piazzata. Già c'è tutto. E poi quando lo sentirò in radio glielo chiedo, dai. Io te l'ho detto, qua avevo messo quella Nagoya piccolina in terrazzino per l'ascolto più che altro, no, perché mi banda quella, e poi alla finestra avevo messo quell'antennino per ricevere, solo per ricevere, con ricevitore portatile, qua sempre suonando il clacson. Mamma mia, un incubo è diventato questa via. Sì, guarda, se mi vecchio è diventato un casino, questo l'altro giorno se stanno andando tutti da lì, non si può stare di notte tra una di tutto a contenamenti, non passi che mi diventano con metto una pila lì alla luce là, e te ne fanno il portafoglio. Aspetta, Antone, ti volevo dire, sei un pochino sattero, non è che puoi abbassare? Ecco qua, adesso va bene, non riesce neanche a fottere il radio. Una faringesia. Molto meglio, molto meglio. Poi ti stai prendendo, oh Marco, che sta ammazzando questi americani. Sì, li sento là qua, sento il loro ragliare dall'11, hanno una larghezza di banda spaventosa e anche i watt sono spaventosi. Devono essere proprio a kilowatt lì, perché loro li senti anche senza propagazione quasi. Se era col 140, ormai vi copre. Ho cambiato al 440 un po' meno, ma sto prendendo curve anche col 440, allucinante. Senti il clacson, mamma mia, quella è roba di Passo Carraio, non fanno altro che strombazzare con questi clacson, è una cosa allucinante. Vediamo se è passato qua Sanpei, era sull'11 e stava bestemmiando contro gli americani. Sanpei, ci sei? Lui c'è solo un blocco di americani, arrivi da Luca la Landriga. Sarà mia e Santiago. Magari loro sentono pure, lui non sente nessuno però. Per carità, no, io non le rispondo più, intanto non mi sente, quindi ho fatto il video nel DD, no, non mi interessa. Non mi interessa, se non mi sente cambia canale, così vi dico, un cagino vi dai, voi soldi. America, noccioline! Mi si sente il clacson, aspetta. No, non voglio alzare però. Qua ce l'ho a 2/3 il microfono. 2/3. E lo lascio così, sennò fa effetto stanza. Va bene, signori, io vi lascio in ruota, io vado a bere e anche a cambiare l'acqua alle olive. Ah, non era questa cosa. Io Marco, già ci sentiamo dopo, rimango anche io un attimo in ascolto, che sto seguendo la caldaia, che l'ho appena accesa, devo aspettare che si... che parte in automatico, se no fa casino. Sentiamo dopo, già sono qua comunque ancora. Io, va bene, ok, vabbè, ma adesso io vado a buttare la roba nella mordetta. E c'ho qui sopra al tavolo, se non mi dice, dentro il tavolo di garraccio. Già dentro, fa 2-3 minuti. Sì, ma cos'è sta alternata, mo? Prima Zatturo, adesso alternata. Alternata, diciamo. Oh, quello. Tappetta. Io io cioè la sento su di te. Anto? Ehi. La senti l'alternata su Antonello? Oh, questo è importante. Ehi, sta toccando qualcosa, dai. Come ha abbassato i watt, si sentite un po' di alternata? Cioè, un po' abbastanza alternata. Dai, dai, che vado in bagno che mi sto pisciando. Ok, c'entra tutto, Marco. Mamma mia. Ciao. Antonio! Ehi, dimmi! E allora, ma sei in macchina o a casa? In macchina sono, in corso Vittorio Margherita di Savoia, dimmi! Ehi, a 9 più 20 qua, stai arrivando! Beh, a casa arrivo a fondo scala, Ciao Carlo! Mi stavamo parlando di te poc'anzi, di sapere che antenino avevi approntato per ascoltare là. Guarda, per adesso sto ascoltando perché ho una nuova radio e quindi ascolto tutto con la stessa antenna. E poi quella ancora non l'ho messa perché non ho avuto molto tempo, diciamo. E quindi adesso niente, immagino che a te arrivo a bomba perché siamo uno di fronte all'altro, quindi non credo che ci siano problemi, capito? Sì, no, era per sapere il modello di antenna. Carlo, però sto notando, per caso sei sottoalimentato, hai la modulazione come vibrata, cioè quando parli è come se l'alimentatore non ce la facesse o roba del genere. O lo sento solo io? E a me, amici? Può darsi, però niente, non... cioè l'alimentatore sto usando quello da 30 ampere, 30-32 di picco, quindi può essere pure. No, eppure dovrebbe bastare. Anto, come lo senti, Carlo? Bene, secondo me è troppo buono che ti arrivi. È che io non avendo refegin qua non posso nemmeno attenuarlo. Però di solito non è così, è come se la modulazione fosse più forte, ma è come vibrata. No, già lo so io che cosa sta usando. Si è portato un chilometro, si nota. Adesso ho cambiato microfono, alternata ciò. Sembra di no. Sta arrivando forte. Premi, Antonè, premi. Guarda un po'. Sento qualcosa, forse sta fischiando, aspetta. Ecco, adesso non sta facendo più. Forse sentivi la ventola. Sì, adesso sento una ventola, però appunto c'è il rumore di fondo tra cui ventola e non so se l'alternata c'è ancora o no. Va bene, comunque la radio è forte. Dai, vado in bagno. Carlo, riprendi tu. Ma cosa è attaccato? Lo dreno è attaccato. Il treno, perché si sente? Va bene. Caspita, qua attenuato ma sei crollato a 9.15, perché ha abbassato un po' l'uscita, capito? Come arrivo io di Santiago? 8, Sanpei modulato 8, Santiago 8. Già va bene, grazie. Nella norma, dai, mamma mia, o mi metto il catetere o vado in bagno. Antonello, riprendi, bianco per me. Mi è entrato solo. Ehi, qua, Sanpei lo sento piccolo, incomprensibile, penso che sta modulando sotto, ma molto basso. Cosa hai toccato? Lo stai sparendo? Così, va meglio. Carlo? Ehi, ho detto, va meglio così? Sì, devi uscire. Vai. Cosa hai toccato? Abbassato la potenza? Sì, ho appena abbassato, adesso l'ho rimessa com'era. Deve andare, ti ho detto. Schiaccia la portante, quanto sta segnando? Sta facendo 50. Anche troppo, Abbasciala appena. Così un po' di meno. No. Aspetta, la abbasso un altro pochettino. Quando tocchi la potenza, perché sennò ti fotte. Mettila. Ma dove sta segnando? Sul 5? Adesso fa. Sì, ai picchi. Aspetta che la abbasso ancora un po', che vanno oltre i 50. Adesso l'ho attenuato. No, non c'entrano niente i picchi. Tu non li guardare i picchi. La portante mutta devi guardare. aspetta, aumento un po' così, così è a 50. Mi picco? Sì. Guarda, va bene a 50, ma di portante muta quanto c'hai? 12. Ah, va bene, lasciala stare così. Non toccare niente, fai finta che non ne hai di tassi. Te l'ho regolata stamattina, lasciala così, non toccare niente. E così dovrebbe andare com'era, praticamente a metà. Oh, non toccare niente, perché quella che è uguale alla mia, quando scalda poi si stabilizza da sola, capito? Com'è? Metti la mano sopra il case, guarda a vedere quanto è calda, la ventola, la senti girare? Sì, è tiepidina, ma non è... è sempre rimasta accesa, da stamattina. Ma se appoggi l'orecchio, la senti la ventola girare? Sì signore, si sente. Oh, apposta, non tocca c'è. Capito? No, tocca c'è. Lo dico in buon orrece. Va bene, Anna Benemeda, sì, riportato così. No, perché Marco mi diceva che mi sentiva tipo a tratti, capito? Cosa vuol dire a tratti? Le orecchie sue sono a tratti, non ti può mai sentire a tratti. Se non ti senti a tratti vuol dire che non stai uscendo bene. Ma qua sei da 7 a 9, va più che bene. Eia, no, dice che è come se fosse tipo poco alimentato, che c'era un problema d'alimentazione. Ho detto, l'alimentatore sta andando. No, è stato vicino al microfono picchiato. Io quando ho sentito che stava che è andato male, sta saturando. Ho detto subito che è parente del mio. Chi è che ha parlato sotto Antonello? Vi saluto velocissimamente, vi stavo ascoltando, sta saturando comunque Carlo, anche da me con la radio grande, si sente un po' leggermente strappato, forse sta dando troppo pilotaggio con la radio. Va bene, allontana la bocca del microfono, Carlo. Sì, adesso sto spostando di più il microfono, lo sto tenendo a almeno 25 centimetri. Adesso va bene. Non toccare niente, il microfono, siccome c'è il microfono palmare, non te lo avvicinare molto la bocca, capito? Te l'ho fatto vedere, tienilo 10 centimetri dalla bocca, vedrai che nessuno ti dice niente. Però non toccare la potenza che è regolata benissimo con la radio, va bene, ciao Roberto. Ciao a tutti, ho sentito Carlo, Antonello, te Claudio e poi l'altro amico, non ho capito dove si trova, Sampi, sbaglio, vediamo se mi ascolta. Io non sento Sampi, lo sento, ma lui a me non mi sente. Non lo so, io non ho sentito niente. Farrobe! Questo che è Antonio, 9, quasi 9.20 sei andato, ma in macchina sì. Caffa in macchina! Ehi, ma c'era anche l'altro Sampi, mi ascolti Sampi? Caffa Roger che ti ascolto, affermativo! Caffa, quasi 9.10 tu, dai, non c'è problema. Dai, continuate che sto facendo altre cose. Ciao Claudia, ci sentiamo da altre parti noi, dai, magari dopo rientro. Ciao Robè, ti saluto. Ciao. Ciao Robè, ciao. Alle prossime, vai Carlo. Eia, ciao Roberto, alle prossime. Eia, ciao a tutti, ciao Carlo. Caffè micidiale che Sant'Emma, è una bomba esce. Sei convinto, ce la siamo andata. Io una bomba, Caffa. Caffa tutti dentro, non ho problemi. La guipa delle Russie. Vabbè, no, ti sento benissimo, tu. Era grande. Capito Carlo? Te l'ho già detto anche stamattina quando ci siamo visti. Perché amplifica molto quel microfono. Quindi tienilo leggermente staccato dalla bocca, una decina di centimetri, non come quello che usavi prima. Altrimenti ti manda in distorsione la modulazione, capito? Caffa, sì, era l'abitudine, l'altro lo tenevo più vicino, adesso questo lo sto tenendo più lontano e dovrebbe andare meglio così. Dopo quando rientra Marco, se rientra vediamo così col microfono staccato se la modulazione la sente meglio. Bene. Com'è Marco così? Perché teneva il microfono? Ho fatto degli accorgimenti e teneva il microfono troppo attaccato alla bocca e amplifica molto quello, capito? Cavolo, tocca la fidanza, sono il della Madonnina, mi sento splendidamente bene. Ah, qui quindi ha un amplificato praticamente. Oh Carlo, ti volevo chiedere, ma quello lì, quell'apparato è di fabbrica? Quello che ho io, stai dicendo, le 5555. Eia. Sì, è di fabbrica. Sai perché? No, ti spiego. Siccome in fabbrica li fanno il trimmer della modulazione chiuso, completamente, troppo chiuso, io il mio gliel'ho messo al massimo, sono dei trimmer, guarda, piccoli, microscopici, però una volta che lo aumenti la modulazione vola e decolla anche col mic di serie. Vai Claudio. Quello non c'è il microfono normale, mica amplificato. L'abbiamo fatto decollare stamattina, non senti che lo sta tenendo a 10 cm il microfono normale. Sì, però vedi, se parla vicino, l'apparato stesso, se ha il trimmer chiuso, fa da collo di bottiglia, cioè potrebbe migliorare ulteriormente con la solita storia del trimmer, perché mi dispiace, ma di fabbrica glielo chiudono troppo, e quindi quando parla da vicino gliela strozza, invece col trimmer aperto sarebbe un bijou. Bianco Berlo, sono arrivato sotto casa, ciao Anto, ci sentiamo dopo, vai Carlo. Sì Marco, ma adesso non lo sto usando quella radio, adesso ne ho un'altra nuova, capito? Usando un'altra radio, non quella là. Sì, ho capito, cioè non è l'8009, è il 55 eccetera eccetera, non so quanti 5 abbia. Sì, quello adesso è spento, adesso sto usando una nuova radio 140 Kenwood. Ah, vabbè, allora devi imparare un po' le accoppiate. Claudio, com'era? C'era una, era l'impedenza che va lasciata sempre a, mi pare, 50 kΩ o quant'era. Poi c'è il processore da modulare, cioè giocare con la mic gain, ecco, tutto lì. Deve imparare un po' a giostrarlo, ecco. Non deve giostrare niente, il mic gain, cioè al massimo sta usando il microfono normale, non ne ha il microfono a tavolo, ma più che bene, è già regolato così. Processore sedito e mic gain al massimo, va bene. Ah, ho compreso. No, perché se li buscate anche un MC60 diventa spettacolare a quel punto. No, ma non c'è posto Carlo, va bene così. Lui si accontenta di poco ed è più che ottimo. Ve l'ho procurata io, stamattina sono andato, gliel'ho memorizzata, sistemata, adesso va bene così. È ottima, nuova, era di un collega. Va bene così, va bene, c'è il microfono normale ed è uguale alla mia. Io vabbè sto usando il 60, però adesso sono col 440. Ma si usa il microfono normale è uguale a lui, solo che lui se lo tiene troppo attaccato alla bocca chiaramente strappa. Invece adesso già si abitua piano piano, però non c'è nessuna regolazione da fare perché non ha niente di microfono, c'è il microfono suo originale. Buttateci tutto! Ecco il profeta. Ciao Gianni. Ah, già era il profeta, sì. Sì, il capotreno era, non è Gianni il profeta, il capotreno. Tu, sapete se tutto, buonasera a tutti. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Ciao Gianni, bene entrato. Gianni è impegnato, lasciatelo fare, siamo qua già quando vuoi entrare, avanti Carlo. Sì, all'inizio me lo stavo portando troppo vicino alla bocca, adesso lo sto tenendo distante e niente, e quindi non tocco niente, dovrebbe andare bene così, anzi più comodo, così non stai col microfono vicino alla bocca. Beh, non vuol dire che lo senti male, no, Marco, nonostante sia vicino a te. No, bene, adesso benissimo. È che prima, sì, guarda, io Carlo, ho avuto anch'io il 140, e col mic originale era orribile, anche perché ballava. Se tu muovevi il mic originale e sentivi la capsula che faceva la tarantella dentro lo chassis del microfono. Poi con l'MC60 invece era buono. però nonostante ciò l'avrò tenuto un anno, due, poi mi sono muriato e me lo sono venduto. Ma quello non ne ha di spazi di nulla, è un microfono nuovo, mai stato usato, l'ho tolto io da dentro la busta, quindi non si muove niente dentro, è perfetto, non sento nessun rumore io. No, quello va bene, no, il mio esemplare era sciabidato, era, insomma, con l'MC60 andava bene, però io non avendo voce da grande modulatore non ne valeva la pena, mi. Te l'ho detto, solo lo Smitter rimpiango di quell'apparato, il resto si poteva anche buttare. Sì. Tutto al... Ascolta Carlo, e i segnali come sono, buoni? E tu mi stai arrivando qua, 9 con picchi positivi, vai a 9,10, tra 9 e 9,20, dai 9,10. Vabbè Carlo, ma Marco ti arriverà a 9,50. Aspetta che metto 3 watt. Ci siamo? 3 watt. Vedi un po', sarà 9,60. No, non è cambiato niente, sempre fondo scala, 9,60 era e 9,60 sei rimasto, siamo troppo vicini. Sì, sì, Claudio, noi siamo attaccati, sono proprio 70 metri saranno, 50. 70, dai, facciamo, per eccesso. Come la buona mamma è Mario Mao con Gio Maria. Vabbè, ma già ho visto dove sei tu, dove lui, c'è un po' di distanza, c'è, non è che le antenne sono attaccate, già va bene, non c'è problema. No, sta arrivando benissimo, caspita, mi sta arrivando da in mezzo tra l'8 e il 9 con picchi positivi, gliel'ho regolata a 20 watt, va più che bene, il microfono è normale, diciamo che... Cioè è contento Carletto. K di Rogero, adesso quando domani scendo di nuovo giù in garage mi cerco il come si chiama, miscelatore d'antenna e così me lo sistemo qua sulla scrivania e le radio così le posso alternare, capito? E molto probabilmente adesso con questa piano piano già mi abito, più che altro che qua ascolti anche qualcosina di interessante, capito? Esatto, te l'ho fatto vedere stamattina perché l'ho memorizzato Marco, quindi sul wifi o memoria c'è tutta la 27 e quella è a parte perché è quella già praticamente è un conversioni, quindi col convertitore va con le memorie e se lo tiene tutte le memorie, poi col VFO memoria si sposta e va nel VFO A, nel VFO A le ho messo i 40 metri, nel VFO B le ho messo gli 80 metri. Eia. Poi una volta che sa le fette, no, da ricevere 7000.2, che poi la fonia è da quant'è, 7050 a 7002 mi pare. 20 metri adesso non me ne ricordo, vabbè comunque ne ascolterà di roba voglia. Figurati qua, quando avrà l'antenna sul tetto mi cancellerà proprio. Lì sono cavoli tuoi. No, vabbè, ma 7050 niente, iniziano, ve l'ho già più o meno fatto vedere stamattina, 7106 c'è sempre molto QSO, 7120, 125, 140, 7150, ma già da quest'ora, dalle 6:30 in 80 metri, a 3650, 3660, c'è sempre gente, capito, fanno QSO, dei bellissimi QSO da ascoltare anche, e a volte secondo che c'è anche la forte una cultura elettronicamente, quindi già va bene. Già va bene, almeno Carletto diluga tutti i lineari, c'ha quello lì con i suoi 20 watt e funziona alla grande, contento sei. Già va bene, e di questa tipologia non ne avevo mai avuto, capito? Io avevo sempre i classici CB, capito, con ci attacchi qualcosa per uscire più forte, così almeno non attacchi niente e rimane tutto più ordinato. L'ho fatto vedere stamattina, visto in FM, con il barra laterale cosa pompa, ma quello è a metà, neanche a metà potenza, quello è perché l'antenna tua è piccola, no, non voglio forzare, se no quello lo metti a 50 watt di portante bianca e c'ha picchi di 100 watt pieni, però è meglio tenerlo così, da 20 a 50 è più che sufficiente. Vai Marco. Hey, media. Ah, quindi c'ha la pressione ampliata, no, fino a 100. Il mio era quello verde di fabbrica, no, mi pare 40-50 modulati massimo in AM. Io lo tenevo massimo tipo 20 portante multa, 40 modulati, no, non lo mettevo troppo a manetta perché sennò poi scaldava troppo, capito? No, quello sono andato a prendere, non c'erano manco i decimali, gli ho dovuto inserire anche i decimali, non c'erano manco i decimali, poi nuova già l'ho vista. A me quando mi chiedono una cosa mi faccio in quattro, però procuro roba buona, perché altrimenti fai figlio di merda e poi non va bene, capito? Me la sono portata qua, l'ho tenuta un giorno e io ho tutti gli appunti per fare i movimenti che devo fare su quel tipo di radio e su altro non lo so fare, ma su quella lì sì. E quindi gli ho messo i decimali, gli ho dato il picco di modulazione, infatti abbiamo controllato stamattina proprio con lui, con l'ellice inserito non esce fuori dalla linea rossa, anche con Mickey Gain a massimo. Ho fatto due varianti, insomma due cosettine, la radio e micidiale, ho fatto quella la mia, quella quella che ho io, precisa. Figa. Ma questo del decimale, praticamente li hai attivato per caso la seconda cifra decimale? Non lo sapevo che forse in origine fosse spenta. Sì, in origine te la danno senza l'ultimo zero. Praticamente tu devi fare nel menu di controllo, devi fare un passaggio, praticamente la devi accendere tenendo premuto clear per qualche secondo, poi si appare l'ultimo decimale, quindi fa 27.365.00. quella quando l'abbiamo presa era 27.365.00, adesso c'ha i due decimali, capito? Poi chiaramente per le memorie lo sai, no? Dall'1 al 9 memorizzi tranquillamente, dal 10 sino al 30, al 20 devi fare i due passaggi, quindi memorizzando tenendo premuto il tasto A uguale B, perché altrimenti ti fa in split. No, mai usata, la memoria non la usavo. Sì, forse i primi 20 canali, però il resto poi non... usavo il VFO direttamente. Va bene, c'era anche Antonello qua. Antonello, ci sei ancora? No, vabbè, le memorie gliel'ho messe, sai perché? Perché quello c'ha il doppio VFO, no? La sintonia continua, dove tu vai dove vuoi, ma lui non gliene frega niente. Gliel'ho messa perché c'ha il commutatore dei canali delle memorie, quindi c'ha le 30 memorie più lo 00, quindi ho messo il canale 40 e quindi lui è tranquillo, tanto noi siamo sempre qua dall'1 al 20, non è che ci spostiamo molto. Per poter usufruire degli altri due VFO A e B per darle le due bande amatoriali, capito? Per quello gliel'ho fatto. Break. Avanti Gianni. Buonasera a tutti, c'è la Midusi. Ci stiamo facendo una cultura. Avanti Carlo per Gianni, ciao, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. E allora, cosa ci racconti di bello Gianni? Di bello niente, sto uscendo da cantare, dai, quello già è bello, già mi diverto. Ho finito adesso di cantare e ho acceso l'apparato, visto che non c'era molta roba oggi da fare, che non c'erano contest, quindi ho finito presto, dai. Anche i contest fanno, tipo banda amatoriale. KK, sì, ci sono i contest, dove ti danno i primi, eccetera. Sì, presenta una gara, dai, tra vari membri. Esatto, c'è una giuria che praticamente ti premia, capito? Io sono stato premiato perché ho fatto una canzone di Anna Oxa, e una canzone femminile fatta da un maschio, hanno apprezzato quello che abbia fatto una canzone femminile e mi hanno premiato. Hai vinto anche? No, adesso la devi cantare qua pure. No, mamma, l'ha cantato al baracchino, ma stai scherzando. Quindi da maschio sei diventato donna, e cosa hai fatto, il trapianto? E allora, poi una un'altra volta America di Gianni Nannini. A me piacciono molto le canzoni femminili, anche canta anche quelle di Laura Pausini. Oh, va bene, va bene. Lasci vuole vagare. Vediamo se c'è Antonello. Antonello, ci sei? Antonello è caduto alla sedia. Vai tu, Marco, vai. Ehi, è l'altro Gianni, non può riprendere. Gianni Rubaffetta, è vero. Gianni, ma l'abbiamo lanciato, non l'ha ripresa. Ci sei? C'è stato uno che ha fatto ora. Sarà amico di Giosu. No, sarà lo splatter. Lo splatter dall'11. No, se uno quello di sorso sta sempre a bozza. Ora. Poco fa mi stava soprammutando Antonio che era in macchina. Sono rientrato, ero al telefono, stavo mandando un messaggio. 1000 l'MS 200, mi? Bippi. Da che periodo si riconosce, eh? Solo l'MS 200 c'ho quel Bippi. Vai, Carlo. Antonio, ce l'hai fatta a rientrare? Ho dovuto chiamare il medico, capito, un attimino, per farvi dare le scuse, delle ricette, grazie. Perché quelle, il medico che avevo scelto non mi ha voluto dare un accidente. Appena sono arrivato ha cominciato a rompere le balle, se l'ha girata conmigo, ho preso, sono andato a fanculo direttamente lì. Allora ho chiamato una amica e le ricette a Simona gliele fa lì. Oggi almeno se la biglia in culo il medico che ho scelto. No, quello che mi piace di Antonello è la diplomazia. Lui appena qualcuno può così risponde così, subito lo manda a fanguarla. Ma Antonello Besole? No. Anche quello mi ha dato a fanculo un giorno. Abbiamo un altro di medico lì vicino, poi abbiamo attaccato Antonello Bresone, quello è in gamba, è andato in pensione, e sono andato lì in farmacia, ho fatto la scelta del medico e lì vicino alla farmacia già visto ci sono due studi medici, anzi in quattro sono. Mi è capitata questa donna, gli ho dato la documentazione e a lei non gli do niente, mi ha detto, e tu come non mi dà niente? Tu se piglia questi medicinali, no, non mi interessa nulla, mi ha detto. Se va bene così, se no niente, mi ha detto. Ah, va bene, allora vai a fanculo, gli ho detto, chiamene scelgo un altro, detto, non c'è solo io come medico, gli ho detto, che esiste. Capito? Adesso mi sono rivolto a un'amica e me le fa lì le ricette. Ah, così è. E allora già va bene, non c'è problema. Vai Gianni Botturu. Ma lei non si può rifiutare di farti le ricette, lo sai. E a me uno si era rifiutato di darmi... Allora io, la mia dottoressa è andata in pensione e nello stesso studio dove c'era la mia dottoressa c'erano due ambulatori e l'ha preso un medico e la mia dottoressa ha detto perché non si prende questo medico, così almeno faccio i passaggi io da uno all'altro e non deve fare nulla lì. E vabbè, sei bravo, dice sì, dovrebbe essere bravo, io non è che lo conosco bene, ma ci provi. Sono andato lì e gli ho chiesto le medicine per il diabete, mi ha detto che lui non aveva nessun foglio, nessuna, come si dice, piano terapeutico riguardante il mio nome. E lui ha detto, guardi che il piano terapeutico non ne stanno più facendo perché lo mandano direttamente al dottore e dovrebbe, sicuramente la mia dottoressa non ha fatto in tempo a mandarglielo. La mia dottoressa stava partendo in Inghilterra quando l'ho chiamata, l'ha chiamato e gli ha detto che non ne fregava nulla, che lì era la dottoressa e lui era un altro, un bastardo. Lui ha chiamato anche i carabinieri. Per carità, che punto siamo arrivati, cazzo. Andiamo, la roba da matti. Vabbè, però mi sembra molto strano che un medico si comporti così. Vabbè. Attenzione, 10. Avanti. Cacca, mi sentite? È a voglia. Penso che abbiamo risposto, buonasera. Buonasera anche a voi, ora, sono acceso questo per un po' di tempo. prendo io, comunque è un casino con questi medici, molti stanno andando in pensione, molti altri se ne sono già andati in pensione e i nuovi non servono a niente. Io fortunatamente ho incontrato il mio medico che è andato via in pensione la settimana prima che andasse via, mi ha detto iscriviti subito che al posto mio stesso ambulatorio ci sarà una dottoressa femmina e ti scegli quella che già è buona, e così ho fatto e ho la fortuna di averla proprio dietro l'angolo qua, c'ho farmacia, è attaccata alla farmacia allo studio medico dove ci sono tre medici, c'è la segretaria, capito? Però gli altri due medici credo che vadano in pensione lo stesso anche loro tra un anno, due anni, non di più, perché c'è la dottoressa Tilocca e il dottor Scanu. Il fratello di Scanu, di Isma, che ce l'aveva giù al monte, vicino alla questura, lui è andato in pensione già da 3 o 4 anni fa, capito? Ed era ancora giovane, se ne stanno tutti scappando. Invece la mia dottoressa, prima di andare in pensione, ha chiesto di rimanere nell'ASL, non l'hanno fatta rimanere. Lì sta operando lo stesso, ma fa praticamente fogli per dire... per cose sportive eccetera eccetera, però non può fare, non può più ordinare medicina. Ho fatto un controllo? Ehi, anda dottore. E che controllo vuoi, Antu? Capo, no, perché voglio capire quando sto uscendo. Qua sei più basso, Antu. Chi è Antonio? Non ho capito. Se no non stavo sbagliando. Qua è 9 più 25 nel, come si chiama? Nella faglietta dell'MS 200. Ma si è agganciato al tuo. Fatturazione si sente. No, io non sento niente, va bene per me. Per me è ottimo, per me è ottimo. Io te ti ho detto, se poi gli altri ti sentono saturo, è normale perché sei vicino, tipo Gianni, ma qua arrivi benissimo. Capo, qualcuno mi splatta, ma nel fattore un po' da bravo. Appena saturo già è radio. Non posso dire il contrario. E io come sono scendo in bicicletta? Esci bene, esci bene, San Pino. Ciao San Pino, buonasera. Buonasera doppio room, come sto scendo in bicicletta, bene? Già va bene, 9:15 sì. Già va bene, allora vi vuole di grasso la gallina la bicicletta. Cappa. Avanti Marco. Il grasso per catena i metti, tieni la lubrificata, così non esce la catena. Cappa, la verità adesso la sto togliendo un bel po', un bel po' la sto togliendo. Salgo a tutto motore. Pompa, pompa, tu, pompa. Cappa, l'ho acceso, quello là l'ho acceso. Dai che c'ha freddo l'antenna, devo scaldare. Ehi, già anda bene, anda bene. Non devo scaldare nulla io. Sì, sto andando con 30 watt, è più che sufficiente. Avanti Carlo. Sì, io di segnale Antonio 9 più 30, però la radio un po', anche io la sento un pochettino satura. O sta parlando molto lontano dal microfono, capito, però è un po' saturina, capito? Non tantissimo, ma a volte lo sento meglio. Capo, sto spingendo, guarda vedere adesso un po' meglio la radio. È compresa, lo sa. E insomma, comunque si mangia un po' di radio. Solo io esco bene con lineare. No, l'ho fatto. Guarda. Ok, guarda vedere, ora va meglio, vero? C'è un abisso, esce chiara, cioè è più forte. Prima proprio te la abbassa e te la satura. Tanto stavo spingendo un bel, un bel, un bel, un bel. Ma cos'è, valvolare o transistor? A valvole. Ehi, a mettere la voce della corrente. Non usa quello piccolino, ti ho detto. Oh, gazzino, biscio. Vabbè, qualche volta per farlo andare, dai. Cazzo. Anche lui deve andare, anche lui. E poi fa anche da stufa, no? Da riscaldamento. Certo, sta già scaldando un po'. Gappa gappa. E lo facciamo andare anche a lui, dai, poverino. Che se non mi si guasta. Anzi, quando aspettavo che rispetto. Avevo l'abitudine, siccome mamma mi aveva fatto installare nel terrazzino i baracchini e c'era un freddo nel terrazzino perché c'era la veranda appostessa in alluminio e in ferro con i vetri nati. Allora prendevo, facevo l'abitudine di lasciare il lineare acceso e una mattina in pratica suonano, cazzo, e non era l'esco posto, mi ha visto il lineare acceso, gli apparecchi che avevo erano roba di 8, 10, una cosa del genere. E questi mi ha detto, e questi non sono i miei, gli ho risposto, e questo cos'è? È un lineare, non mi ha detto nulla, mi ha detto solo mettere gli apparecchi, infatti mi aveva fatto il verbale per non toccare, ce l'ho ancora il verbale conservato, mi ha fatto pagare 80.000 lire allora. Antonè, tu hai un santo in paradiso, se no... Sì, giuro, mi faccio tutto il tuo, ho detto, ricordo, usavo sempre quello, sempre acceso era, perché c'era un freddo, la mattina si congelavano le mani, lo usavo come scaldino, non lo spegnevo quasi mai. Vabbè, già va bene, sono io che ho anche quella valvola qua che mi hanno anche un transatlantico. Quasi 20 kg, 18 kg pesano sempre, però le valvole le ho tolte, conservate, uso quello allo stato solido, che dice mi ammazza, se attacco quello cattemi in gesso, passa a vendere. E faccio un attimo di bianco, arrivo subito, quando rientro ve lo dico, avanti Carlo. E in realtà, no, io grazie a Dio qua già sto bene, è abbastanza calda questa appartamentino, il riscaldamento funziona bene, adesso ce l'ho acceso da un'oretta e ho già 22 gradi e mezzo dentro casa, alle 9 si spegne tutto e niente, quindi meglio di me non sta nessuno. Sì, un fascia. Quanto c'è? 22, io l'ho accesa alle 6, sono già alle 7 meno un quarto, 7 meno 10 e c'ho già 20 gradi, io alle 10 lo stesso l'avevo spegnere, se non si può stare, se non si può stare, non c'è neanche un'ora accesa e già è salita, era 18 e siamo già a 20, è un po' tra il picco. Va bene, un attimo di bianco per me, arrivo subito, vai già. Yeah. Ma com'è a Trucciolino la caldaia o come va? Mio? No, la mia caldaia è a pellet, è idropellet. Scalda tutto, collegato al termosifone. Ah, ho capito, c'è tutto il circuito. Sì, lo posso far andare anche normale, ma c'era anche ventilata, adesso sta andando ventilata e termosifone, adesso infatti stacco il ventilato perché sennò non si può stare tra 10 minuti, lascio solo il termosifone, capito? E consumavo? No, sa come fa 2 giorni, anche 3 a volte. Va bene, dai. Nelle stufe normali un sacco ti fa un giorno, se la accendi dalla mattina e te ne avanza appena appena. Ma cosa ne faccio dalla mattina? Mia moglie la mattina apre tutto, no? A rieggiare, a pulire, cosa? Noi accendiamo solo la sera, a volte la accendo dalle 5, dipende, a volte